la devo salutare perché il Milan non sarà più negli anticipi delle prossime puntate di Sabato Sprint. Vi saluto, mi mancherete. Grazie, buonasera. Grazie a Inzaghi, ma noi siamo sicuri di rivederla a fine agosto. Convocati Weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. 800 24 00 24, da qui alle 19 telefoni aperti, anche se non volete gufare il buon Pippo che ieri ha chiuso con gli anticipi del sabato sera. Io non so se avete sentito come è stato salutato, Carlo? Sì, ho sentito come è stato salutato Giovanni. Milan che ha vinto. Ci vedremo sicuramente alla fine di agosto. Sì, ci vedremo sicuramente su altri schermi. No, magari va a fare il commentatore a Sky. Anche se Milan ha vinto. Ma chi lo sa. Intanto Cesena che è retrocesso con 3 giornate d'anticipo. Atalanta praticamente salva. Basta un punto perché ne ha 8 di vantaggio sul Cagliari e anche il favore degli scontri diretti. Quindi diciamo che si siamo giocati un po' tutti i verdetti che restavano, tranne la volata europea. Ma oggi la Samp ha vinto pesante a Udine, ha sparigliato, però oggi hanno anche corso le macchine e al Mommelo è finita così. Yes, come on! Good job Nico, good job, excellent race, well managed, really good job. Just pick up rubber and just enjoy that in lap, really good managed race. Ha vinto Rosberg su Mercedes, secondo Hamilton, terzo Vettel. Per la Ferrari è stata una domenica così. Quinto podio consecutivo, testa bassa e lavorare anche perché il distacco da Hamilton era abbastanza importante, ma possiamo dire che è tornata la perfezione di Sebastian Vettel in questo weekend. Vabbè, no, non è una buona gara, siamo onesti, per cui anche se abbiamo fatto un podio, un altro podio, però il distacco è grande e quindi ci vuole ancora molta umiltà e andare avanti. Beh, meraviglioso. Maurizio arriva bene, cui la domenica della Ferrari non è piaciuta. Saluto Umberto Zappelloni, vice direttore della Gazzetta. Ciao direttore. Ciao, buon pomeriggio a tutti. A volte noi giornalisti siamo un po' timidi a fare le domande, poi arriva uno come arriva bene e dice no, guardate, io proprio non mi è piaciuta. Meno male che c'è, grazie di esistere. Buffo vedere arriva bene, smorzare gli entusiasmi forse eccessivi degli amici di Sky che stavano esaltando un po' troppo per il terzo posto di Vettel. È vero, quinto podio consecutivo, ma ha una vita dalle due Mercedes. La Ferrari è uscita bocciata da questo weekend, la ragione arriva bene a non essere contento, non c'è da essere contenti visto che era il weekend in cui venivano portate in pista delle novità e queste novità non hanno portato un riavvicinamento alla Mercedes, perché le novità della Mercedes hanno evidentemente dato qualcosa in più alle frecce d'argento che sono tornate a volare. Direttore, credo sia questo il punto, perché sappiamo che comunque questo era uno degli incroci della stagione. La Ferrari aveva provato un sacco di cose, aveva praticamente ribaltato la macchina e si trattava di capire le prospettive di questo mondiale. Le abbiamo capite, no? La sensazione è quasi che la Mercedes fosse nelle prime 4 gare dell'anno è andata un po' di conserva per guardarsi un po' attorno e adesso ha spinto come può spingere e si è vista la differenza in qualifica, si è vista la differenza in gara. Ci saranno piste in cui la Ferrari sarà competitiva perché la Ferrari ha più sviluppi del motore a disposizione rispetto alla Mercedes, ci saranno volte in cui magari le condizioni atmosferiche favoriranno le caratteristiche della macchina di Maranello, però insomma era inutile illuderci, questo campione ci ha tolto tutte le illusioni mondiali, sì, che qualcuno magari poteva avere dopo la vittoria di Vettel in Malesia. Il mondiale è ancora una cosa Mercedes, è ancora una cosa tra Hamilton e Rosberg. Sì, fortunatamente forse. Ecco, abbiamo forse la speranza di poter vedere qualcosa in casa Mercedes. Rosberg ha tenuto aperta quella porticina, se esiste. Sì, diciamo, almeno si è un po' addormentato Hamilton, ma Rosberg ne ha approfittato con un weekend perfetto. C'è da dire che la Ferrari è comunque saldamente sul podio, all'inizio dell'anno avremmo fatto la firma per una stagione con la Ferrari davanti a tutto il resto del mondo. La Williams si è fatta più pericolosa perché Bottas, che non è Massa, passato il mal di schiena negli ultimi due Gran Premi, è riuscito sempre a tenere dietro una delle due Ferrari, però mi sembra che il duello si veda in questo momento ancora davanti la Ferrari, e poi che è l'obiettivo che ci eravamo posti all'inizio della stagione, vedere una Ferrari costantemente sul podio, vederla qualche volta davanti a tutti e comunque vederla spesso davanti alla concorrenza, cosa che sta succedendo. Sì, anche se la concorrenza Red Bull e McLaren io credo si sia più eliminata da sola. Ho capito, oggi, però Alonso su una medaglia d'argento, problemi ai freni. Su una medaglia d'argento della Ferrari avremmo fatto la firma tutti, ha ragione il direttore? Sì. Assolutamente sì, c'è da dire che è stata agevolata dal fatto che la McLaren non ha trovato assolutamente ancora il bando della matassa. La McLaren non sta correndo, diciamo, Alonso dice abbiamo migliorato di 2 secondi all'inizio dell'anno, ma all'inizio dell'anno erano quasi fermi, quindi ci voleva molto. La Red Bull mi sembra di poter dire che per la prima volta dopo tanti anni ha sbagliato completamente la macchina, che non sia soltanto un problema di motore, ma che ci sia anche un problema di Adrian Newey, che una volta ogni tanto gli capita di toppare la macchina. La Williams, che è quella più pericolosa, gode anche dal motore Mercedes e quindi ha sicuramente un vantaggio, però la Ferrari mi sembra che possa tranquillamente continuare a occupare la seconda piazza di questo campionato, che è poi l'obiettivo dell'inizio stagione, insomma. Sì, diciamo che il problema è che siamo alla quinta e ci siamo già messi in tasca anche questa stagione. Vi faccio sentire rapidamente Mihajlovic, che di quel poco che si è visto di calcio questo pomeriggio è certamente quello che ha tratto i risultati migliori. Microfoni di Sky. Poi comunque sono contento perché è una vittoria importante in corsa per Europa, ci rimangono altre 3 partite e dobbiamo cercare di portare a casa più punti possibili e fare questo miracolo. Penso che ce lo siamo meritati, perché all'inizio di stagione gli obiettivi erano diversi e perché nessuno ci ha regalato nulla, ma con merito siamo qua e cerchiamo di chiuderlo bene stagione. Ilaria. Sai da quando non vinceva Carlo una partita alla Samp? Da sei giornate. Questa è una vittoria che spariglia la volata Europa League, mettendo intanto l'Inter questa sera ore 20:45 Lazio-Inter spalle al muro. Io chiedo un minuto di pazienza ancora ad Umberto Zappelloni, perché poi vogliamo parlare anche del Milan, ce lo stanno chiedendo anche i nostri amici che scrivono al 349-238-6666, avete anche il modo di chiamarci, 800-24-0024 traffico. C'è ancora molto da fare, ma voglio dire, oggi no, non sono contento. Tutti convocati. BMW Freightride, il nuovo finanziamento per il tuo maxi scooter BMW. Info su bmwmotorrad.it. Vi presenta... convocati. Presidente Berlusconi, in queste settimane si è parlato molto del Milan e forse di una possibilità di una sua vendita. Lei che cosa ci dice a questo proposito? Che è vero. La mia famiglia, che ha sostenuto spese importanti anche e soprattutto negli ultimi anni, non è più adeguata a ciò che è necessario per essere competitivi ai massimi livelli. Anche mi pare nella sua città, anche l'Inter qualche anno fa. L'Inter per esempio ha ceduto i Moratti a questo Toir, che peraltro non sembra sia intenzionato o abbia le capacità per apportare i capitali che farebbero dell'Inter una protagonista italiana ed europea. Per dire la sua, Inter gioca con tutti i stranieri meno uno che oltretutto si chiama Ranocchia. È una bella bestia. Se arrivasse qualcuno che garantisse che ogni anno per un periodo X ci fosse un'immissione a livello di quelle che sono le altre grandi squadre di soldi, a questo punto mi sacrificherei. Voglio andare a fondo e scoprire se chi si propone non vede nel Milan semplicemente un mezzo per acquisire una forte popolarità immediata. In bocca al lupo. Bravo. La caduta finale che non riguarda il Milan, io fra qualche minuto vi dico una cosa su chi cerca popolarità col Milan. 800 24 0024 Vorrei sapere da Umberto Zappelloni che impressione gli ha fatto sentire queste parole di Berlusconi. Ma ha ammesso quello che ormai avevamo capito, che sta cercando il miglior venditore acquirente possibile per il Milan. Lui sognava di vendere il 49%, pensando di trovare qualcuno fesso, come tutti, disposto no? a dargli dei soldi, e continuare a comandare lui con i suoi uomini. Credo che abbia capito che questo sia decisamente un po' difficile, e quindi dovrà cercare di scegliere bene, un uomo che possa garantire degli investimenti importanti. Lui ha parlato anche di Tohir, cioè lo potrebbe vendere a qualcuno che ha più mezzi e più disponibilità finanziaria di Torino, mi sembra chiaro questo. Poi insomma gli piacerebbe comandare almeno ancora un paio d'anni, questo è mi sembra di poterlo dire, non credo che sia una cosa semplicissima. Vuole tutto, Berlusconi vuole tutto. Non vuole persone che cercano popolarità grazie al Milan, non ha assolutamente mai inseguito. Però il problema è che lui ha detto anche che vorrebbe gli italiani, perché ci sono troppi stranieri in Italia, ma vorrebbe anche chi compra i top player, che non sono quelli italiani notoriamente, almeno non in questo momento. No, su chi cerca popolarità, a me risulta che i soldi di Mr. B siano lì depositati in un conto. Per carità, poi Mr. B dal punto di vista della comunicazione non è stato brillantissimo, però al momento quelli sono soldi veri di un'offerta messo fuori gioco, però, che Berlusconi ha comunque ritenuto seria, e se anche cercava popolarità la stava pagando non poco. O no, direttore? Devo dire che l'offerta, se non fosse stata un minimo, non avesse avuto un minimo di serietà, non ci sarebbe arrivato all'incontro e a quella specie di conferenza congiunta fuori dall'hotel sul marciapiede. Insomma, io credo che lì Mr. P abbia dimostrato di essere serio nella sua offerta e gli abbia fatto vedere dei soldi veri. Poi, se il giorno dopo sono arrivati i cinesi, ti hanno fatti vedere di più, e però si decide a questo punto, perché sembra che l'offerta cinese sia superiore a quella di Mr. B, e forse che gli permetta di restare qualche anno in più all'interno della società. Però insomma io credo che sarebbe importante per i tifosi milanisti vedere la fine di questa pantomima il più in fretta possibile, perché poi c'è tutto da ricostruire. Questo per dire che prima di etichettare qualcuno come semplicemente a caccia di popolarità, ripetiamo, comunque ha portato determinate garanzie. Non mi sembra tanto, perché rischiamo di raccontare storie diverse, capito? Cioè ci vuole anche il rispetto ogni tanto della verità dei fatti, o no? Anche perché non mi sembra che si tratti di personaggi che qualche anno fa avevamo visto girare attorno alla Roma, girare attorno alla prima volta al Bologna. Insomma, mi sembra personaggi che abbiano un fondamento di verità, non sheikh inventati che abitavano a Perugia o giù di lì. Mi sembra che qui ci sia qualcosa di serio, però forse Berlusconi ha trovato qualcuno che ha più soldi, però insomma si deve decidere. Insomma, credo che anche lo stesso Mr. B a questo punto non si stia abbastanza irritando per come stanno andando. Ma d'altra parte risulta, direttore, che comunque dietro a Mr. B ci sia questa accordata che ha l'appoggio del governo cinese, del Partito Popolare Cinese, di importanti banche, quindi mi sembra tutto piuttosto verosimile, piuttosto importante. Quindi si tratta, Berlusconi deve decidersi, perché lui stesso dice io non ce la faccio da solo, e però se non ce la fai da solo devi vendere, cioè non è che ci sono molte alternative. Esattamente, ormai lo ha ammesso, io da solo non ce la faccio, da solo non posso reggere la concorrenza, soprattutto delle grandi d'Europa, ma neanche delle grandi d'Italia, perché la Juventus ha un altro budget rispetto all'ultimo Milan, e quindi deve per forza cedere. Questo credo che lo abbia capito, e spero che decida in fretta chi cedere questo Milan. Ci chiedono, scrivendo al 349-238-6666, se immagini un Milan con Emery in panchina e magari con Falcao in attacco, che porta il discorso su Doyen, che non è detto che necessariamente sia una bella notizia per il calcio italiano, io lo dico. No, non è necessariamente, non è necessariamente una bella notizia. Piuttosto che andare a riscaldare certe minestre, come si sussurra, perché c'è ancora la possibilità di Ancelotti, che è stato un grandissimo, però perché non provare una strada nuova? Emery sta facendo benissimo, ma l'importante io credo che sia questa volta scegliere un allenatore che non debba imparare a fare il mestiere al Milan come è successo negli ultimi anni, quindi qualcuno che arrivi già costruito e che possa aiutare il Milan a crescere nel frattempo, perché il Milan non è più la società di un tempo che può permettersi di far crescere l'allenatore come era stato con Capello pescato da una scrivania, come era stato Sacchi pescato a Parma, lo abbiamo visto con Sedo, lo abbiamo visto con Inzaghi. Il Milan ha bisogno di un allenatore che faccia crescere la nuova squadra, perché non può più permettersi, che non ha la società forte come un tempo, non ha i giocatori forti come un tempo, di prendere un allenatore alle prime armi e di crescere insieme a lui. Assolutamente, grazie direttore. Ciao direttore, buon pomeriggio. Grazie Umberto Zappellone, vice direttore della Gazzetta dello Sport. Saluto intanto Gianni De Biasi. Ciao Gianni. Oh, che piacere. Ciao Carlo. Ciao Gianni. Vi posso far sentire solo un passaggio di Edi Reia, che oggi si è praticamente salvato vincendo a Palermo dai microfoni di Sky. Più difficile di quanto aveva previsto centrare la salvezza con l'Atalanta? Ma no, noi abbiamo avuto un buon rendimento e oggi è successa la stessa cosa che era successa in altre partite, perché siamo andati in vantaggio spesso, diciamo, in questo scorcio di campionato, almeno dal mio arrivo, però non l'abbiamo mai concretizzato perché abbiamo avuto delle opportunità, non abbiamo mai chiuso la partita. Oggi pensavamo di averla chiusa, invece ci siamo complicati ulteriormente ancora la vita con questa espulsione del nostro portiere, e poi in 10 uomini diventava difficile portare a casa i risultati. Ci siamo riusciti perché i ragazzi veramente hanno raddoppiato le forze, perché alla fine non ce n'avevano più e hanno voluto a tutti i costi questa vittoria, portare a casa questo risultato, perché si sapeva perfettamente che per noi era determinante. Ilaria, questo Edi Reia, che è una garanzia, Gianni, quando serve una salvezza da prendere per i capelli, un allenatore con quel profilo lì. Poi si può sperimentare in altre fasi della stagione. Mazzone è andato in pensione, ma è sempre una garanzia. Sì, è sicuramente un allenatore esperto, che ne ha vissute tante, che sa da che parte cominciare a rivoltare la matassa che si è ingarbugliata, e credo che abbia dimostrato in questi anni, prima a Napoli, poi a Roma con la Lazio e adesso in situazione abbastanza difficile dell'Atalanta, che secondo me gli allenatori che hanno esperienza servono ancora. Il problema è che bisognerebbe supportarli e dargli la possibilità di costruire insieme i progetti e non trovarseli già fatti e poi tu devi soltanto gestire a mio peso. Questo credo sia il primo presupposto per andare incontro a situazioni di difficoltà, a spese inutili, a esoneri continui di allenatori, giusto per dare in pasto ai tifosi qualcuno da immolare. Io credo che le cose dovrebbero essere ribaltate e cercare di fare il progetto serio, mettendosi al tavolo con un allenatore sul quale e del quale c'è la massima fiducia, e non inventarsi dalla sera alla mattina nuove realtà. Probabilmente Guardiola ha rovinato un po' la testa a molti dirigenti. Sì, hanno pensato tutti di avere un Guardiola nel settore giovanile. Forse l'ha rovinato un po' anche al Bayern. Sì. Quello vediamo. Dice Carlo, ha rovinato un po' la vita anche al Bayern. Un po' sì, ma non lo so, non lo dico, l'ha detto Beckenbauer, sì, lo dice l'establishment del Bayern Monaco, mica io, Ah sì, l'ha detto niente per fuori del presidente, ma credo che poi lì uno ha la sensibilità di esprimere giudizi nei momenti più opportuni. Chiaro che adesso spalle sulla Croce Rossa se parli contro Guardiola. Io credo che Guardiola sia un ottimo allenatore, che abbia avuto la possibilità di esprimersi in un ambiente che conosceva, leggi Barcellona, dove aveva fatto esperienza con la seconda squadra e dove secondo me i grandi giocatori fanno la differenza, ed è normale che sia così. Poi bisogna saperli gestire, bisogna saperli motivare, bisogna avere una società che ti spalleggia e che non ti mette in difficoltà. Questi sono gli aspetti importanti, e quello che ritengo ancora più importante è quello di cercare di stare dentro i propri ambiti, ruoli, funzioni, compiti, perché spesso volentieri invece gente ti interferisce col lavoro dell'allenatore, dei dirigenti, perché va direttamente sul precedente, sapete a chi mi riferisco. Quindi credo che oggi lavorare sia, specialmente in Italia, sia abbastanza complicato. A proposito di allenatori, prima abbiamo sentito Mihajlovic quasi festeggiare la qualificazione europea della sua Sampdoria. Io continuo a pensare che Mihajlovic sia il profilo giusto per il Napoli, poi vedremo come finisce la questione del rinnovo o meno di Benitez. Anche se Pioli secondo me è l'allenatore dell'anno. Sì, assolutamente. Tu cosa ne pensi? Che entrambi sono due ottimi allenatori, l'hanno dimostrato. Mihajlovic ha già un certo curriculum a livello di Serie A, Pioli ha fatto tantissima chiavetta e tanta esperienza, persona equilibrata, misurata, capace, e lo dimostra in ambienti anche abbastanza difficili. Credo che Mihajlovic per Napoli sia forse qualcosa in più, perché è un grandissimo motivatore, sa tirare fuori molto dal gruppo che ha a disposizione. Io credo che il Napoli, se migliora qualcosina a livello difensivo, possa essere una squadra che può avere risultati diversi nel corso della partita. C'è molto di Mihajlovic dietro questa Samp che in questo momento è quinta da sola. Vediamo cosa farà la Fiorentina, però faccio due conti guardando anche il calendario che aspetta la Samp. Per arrivare quinti servono probabilmente 60 punti, il che quasi toglie speranze all'Inter e al Torino, quindi quello di oggi è stato un pomeriggio tutt'altro che banale. Per chiudere con Gianni De Biasi, cosa ti aspetti dalla volata invece per la Champions? Hai detto qualcosa del Napoli, ieri abbiamo visto una Roma tornata su livelli che avevamo dimenticato nelle ultime settimane, questa mattina allenamento alle 7.30 dopo essere rientrati nella notte, da giovedì ci sarà il ritiro punitivo. Io non so come si gestisce da parte di un allenatore una fase lunga prolungata di rottura come questa. Io voglio sapere anche un paio di nomi di giocatore albanese che sta seguendo. Sì. Io credo innanzitutto uno che gli eccessi non vanno bene da nessuna parte, ci vuole equilibrio e in una classe come Roma ci vuole molta capacità nel maneggiare lo strumento squadra, e il fatto di questa punizione secondo me lascia un tempo che trovano, anzi mi dispettisco ulteriormente i calciatori e forse ottengono l'effetto contrario. È chiaro che c'è una grande pressione sulla Roma perché questa sera il Napoli, la Lazio può passare nuovamente davanti, e il Napoli è una squadra che dovrebbe teoricamente, per quelli che sono stati gli investimenti, per il progetto che sta continuando con Benitez, avere probabilmente un risultato diverso finale, quindi la qualificazione diretta in Champions League, ma credo che sia difficile e tutto passi attraverso queste ultime tre gare. Assolutamente, grazie Gianni De Biasi. I due giocatori me li dici dopo, due giocatori albanesi che stai seguendo. Te lo dico una prossima volta, ciao. Bravo. Ci fermiamo 800 24 00 24, torniamo subito. 20 anni fa si diceva Pizza Mafia e Sofia Loren, adesso ancora purtroppo si dice Pizza Mafia, ma si aggiunge Milan. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Logisticamente, Modul Block. Dal più piccolo magazzino, semplice o automatico, al più complesso centro logistico. Vi presenta... Tutti convocati. Sentiamo Stramaccioni, microfoni di Sky. Sono Chiara e questo è... diciamo che è un po' un anno, no? di una fine di un ciclo straordinario e incredibile che l'Udinese ha fatto, centrando più volte l'Europa che conta, e bisogna sicuramente ricominciare, ricostruire con una base giovane ma anche con dei giocatori importanti, perché credo che queste partite io sto anche cercando di valutare, no? dei ragazzi anche per capire chi è che può rientrare subito immediatamente dalla porta principale del progetto, che magari ha bisogno di andare a giocare un anno come spesso l'Udinese fa nel suo progetto. Quindi io credo che è importante finire bene, è importante queste tre partite. Noi venivamo da un trend positivo, oggi è stata una sconfitta, ma ripeto, nelle proporzioni esagerata, sorto, però la Sampdoria ha meritato di vincere, probabilmente negli ultimi 25 minuti ha sicuramente messo una motivazione enorme, molto più di noi. Sì, motivazione che la Samp non poteva non avere, ripeto, classifica che la vede in questo momento quinta da sola, quota 54, tra l'altro Fiorentina che sta per giocare a Empoli, fuori Diamanti gioca Bernardeschi, queste sono le ultime che arrivano da Empoli. Sulla Fiorentina bisognerà capire qual è invece l'approccio. Saluto Enzo Bucchioni, ciao Enzo. Sì, buon pomeriggio a tutti. Io sono in condizioni un po' disagiate, mi sentite, perché sono allo stadio, c'è tanta musica per ora. E allora ci dai le ultime tu dallo stadio, dai. Ma sì, io posso leggerti anche la formazione se vuoi, che hanno consegnato poco fa. Come dicevi tu, giustamente gioca Bernardeschi in ritorno dopo 4 mesi, 5 anzi, un lungo infortunio che ha chiuso la stagione, cioè ha tarpato le ali, diciamo, a un giocatore che era in grande ascesa e ora si ripresenta, un giovane sul quale la Fiorentina punta moltissimo. Poi davanti ci sono Gilardino e Ilicic, è un 4-3-3 della Fiorentina, mentre l'Empoli fa il solito 4-3-1-2. L'Empoli è in formazione, chiamiamola tipo, a parte la squalifica di Mario Rui, che viene sostituito sull'esterno sinistro da Laurini. Questo è sono le ultimissime. Cosa ti aspetti dalla Fiorentina? Meno 4 giornate, le motivazioni fanno la differenza. Oggi pomeriggio quel poco che c'è stato di calcio l'abbiamo visto in maniera chiara, in positivo e in negativo. Sì, guarda, dalla Fiorentina mi aspetto una grande reazione dal punto di vista nervoso, dal punto di vista, chiamiamolo così, emozionale, perché deve provarci a riconquistare il quinto posto in classifica, perché la Sampdoria ha vinto e quando vai in campo sapendo già il risultato della tua avversaria del momento, che è la Sampdoria, devi sicuramente cercare di quantomeno di eguagliarla, quindi eguagliarla significa provare a vincere a Empoli. Il secondo motivo è vedere come sta la Fiorentina dopo la batosta che ha preso giovedì in Europa League, questi 3 gol che ha preso Siviglia, che peseranno o non peseranno nella testa dei giocatori, questo è il grandissimo interrogativo. Enzo, molti mi hanno criticato perché in settimana dopo quelle 3 palle prese dalla Fiorentina ho definito i Viola una squadra femmina, molti mi hanno detto ma cosa dici, sono definizioni superate, io continuo a pensarlo. Ma guarda, l'ho scritto anch'io, quindi ci siamo letti nel pensiero. Sì. Lo diceva il grande Gianni Brera a suo tempo con la definizione, infatti ho detto una definizione un po' arcaica. Un po' arcaica, esatto. Sì, sì, calcisticamente parlando, però che rende bene l'idea, perché a me non basta più una squadra che faccia possesso palla, che ti faccia divertire per mezz'ora e poi viene spianata con una ruspa e non esiste più. Ma non mi basta più neanche una Fiorentina che giochi per 3 mesi l'anno, perché il campionato dura 10 mesi ed è un momento importante della stagione, quello decisivo, ti devi far trovare pronto, anche fisicamente questa squadra non sta bene, quindi voglio dire il divertimento che abbiamo visto anche a Siviglia con i gol falliti, dopo mezz'ora la Fiorentina è sparita, anche se fosse andato dentro uno di quei gol lì, e il calcio e gli episodi sono fondamentali, magari finiva 3-1, avevi una speranza in più, però non ti puoi fare asfaltare, usiamo questo termine più moderno, anche se sì, brutto, come ha fatto la Fiorentina, ma poi nell'ultimo mese e mezzo ha preso 3 gol a Napoli, 3 gol dal Cagliari, 3 gol dalla Juventus e 3 gol giovedì, quindi voglio dire, qui c'è la legge del 3 e diventa imbarazzante. Ho l'impressione che il dossier Montella sia tutt'altro che chiuso. No, non credo. Ma credo, guarda, c'è un po' di agitazione in società, perché i Della Valle hanno fatto degli investimenti importanti, è vero che Mario Gomez è stata una sfortuna incredibile con l'infortunio che c'è stato dopo appena 3 giornate di campionato e questo faticosissimo recupero di questo giocatore che non riesce a entrare né negli schemi né a ritrovare una forma fisica accettabile, è vero che Rossi è sempre fermo, anche lì è una maledetta sfortuna, però se prendi l'organico dalla A alla Z di questa Fiorentina io non credo sia inferiore a quello della Lazio. E se arrivi a fine stagione con tante belle soddisfazioni parziali, vittorie di tappa, visto che c'è il Giro d'Italia in corso, vittorie di tappa, ma poi alla fine non porti a casa nulla e qualcuno credo che a Montella chiederà il conto, anche perché rischi di rimanere anche fuori dall'Europa League e questo sarebbe una rimessa economica globale di una stagione che i Della Valle non potrebbero sopportare, già sotto di 20 milioni. Insomma, siamo arrivati dal vincere tutto al vincere quasi niente in un mese solo. E non può succedere in una grande squadra. Sì, a proposito di Giro d'Italia, a Genova, seconda tappa, ha vinto un italiano, ha vinto Elia Viviani in volata. La maglia rosa è di Michael Matthews. Prima di lasciare Enzo Bucchioni a Empoli Fiorentina, volevo sapere da lui che idea si è fatto invece della Roma, a proposito di allenatori che hanno perso un po' il filo in questa seconda parte della stagione. Festa finita. Guarda, non so se la Roma riuscirà a riconquistare il secondo posto, se riuscirà a mantenere il terzo, questo vedremo. Una cosa mi sembra chiara, ma da molti mesi, qualcosa si è rotto all'interno dello spogliatoio nel rapporto fra Garcia e il gruppo, è inutile che ci raccontino delle storie, perché poi siamo uniti, siamo belli, siamo bravi, poi parlano i fatti e parla il comportamento dei giocatori in campo, e questo è un aspetto. Il secondo aspetto io credo che dovrà essere fondamentale per la prossima stagione e per sempre. La Roma, i proprietari della Roma devono chiarire definitivamente il ruolo di Totti, perché se Totti continua ad andare in panchina e poi a mettere i suoi uomini contro l'allenatore perché vuol continuare a giocare a 38 anni, vuol essere titolare, vuol decidere il futuro, il presente, il passato l'ha già deciso della Roma e fa fuori tutti gli attaccanti che comprano perché vuol giocare lui, la Roma non andrà mai da nessuna parte, si devono chiarire, questo è l'aspetto più importante e mi pare che l'allenatore in questo momento c'è in grosse difficoltà, se dovessero dare ancora una wild card a Totti per un altro anno e dirgli fai quello che ti pare, io fossi allenatore allenare la Roma non ci vado, perché so che prima o poi dovrò fare i conti con lui e con uno spogliatoio che mi si è rivolta contro. Questa è la storia da Spalletti, tre possessi di allenatori che sono passati di lì e hanno fatto questa fine. O gioca Totti e le cose vanno bene, o se non gioca Totti le cose cominciano ad andare male, dal punto di vista pratico, dal punto di vista psicologico, del gruppo, di tutto il resto. Sì. Sottoscrivo tutto. Ieri il gol di destro non era nemmeno quotato. Ieri il gol Inutile che ci raccontiamo delle favole. Ha ragione, sottoscrivo tutto quello che dice Enzo Bucchioni. Grazie Enzo. Ciao. Sì, ma sai, i monumenti mi stanno bene, per me Totti è un monumento, ma con i monumenti non si gioca più a calcio. Sai cosa diceva Meneghin, no? Sì, ripetimelo, perché questo in una confusione totale. No, diceva che i monumenti sono la cloaca dei piccioni. Sì, a Firenze è vero, creano tanti problemi. Ciao. Scusate il collegamento, ma qui veramente sono grazie a te. A Firenze sono anche una bella cosa da vedere i monumenti. 800 24 00 24, prendiamo Giuseppe da Bergamo. Giuseppe. Buongiorno. Sì. Buongiorno. Oh, ma guarda che ha ragione. Volevo parlare però di un altro argomento. Allora, facciamo il traffico e poi ripartiamo dall'altro argomento. Traffico. Ma sì, sono Dino Zoff. Io non ho detto che Buffon è peggio di Casillas. Ho detto semplicemente che Casillas è meglio di Buffon. Tutti convocati. Tutti convocati. Domande in una. La prima è che cosa si è rotto nella Roma, perché qualche mese fa lei parlava con grande sicurezza di obiettivo scudetto e poi ha perso con Milan e Inter, due squadre in gravi difficoltà, e le chiedo anche se l'anno prossimo sarà sicuramente allenatore della Roma. Sono più di due domande in una e metto il mio joker per tutte queste cose perché non mi va di rispondere. Entrambe? Entrambe, perché è la mia scelta. Onda, eccolo il tocco dentro, il vantaggio del Milan con Van Ginkel, il primo gol in Italia al 40esimo. Riesce ad andare via, riesce a crossare, superato De Sanctis e Mattia Destro realizza il gol del 2-0. Ha fatto gol alla Roma, prima volta. La prima volta ci gioco contro. Sono le cose strane di un giocatore in prestito che gioca contro la sua ex squadra o la sua ex futura squadra. In Francia non capita quasi mai questa cosa, ma in Italia si può fare. Sono contento per Mattia, ma ovviamente sono arrabbiato per noi. Vedersi giocare così mette un po' di rammarico, però secondo me bisogna guardare avanti. Ora penso che siamo tornati a essere quelli che eravamo a dicembre, una squadra compatta, una squadra vera che si aiuta. Comunque siamo contenti perché insomma, a pensare di battere la Roma che è in lotta per la Champions diventava difficile alla vigilia. Alla fine della partita ho visto i miei giocatori chiedere perché mancava 30 secondi di gioco all'arbitro, ma noi abbiamo perso una ora di gioco. Giocato il jolly, Garcia. Un paio di domande, quelle che insomma tutti vogliono sapere in questo momento, e lui ha giocato il jolly. Giuseppe da Bergamo. Ha ragione Bucchioni. Eccoci ha detto qui. Tutto lui. Se l'avete sentito, se non riascoltato, se no me lo ripeto io. Dimmi Giuseppe. Devo dire che io la partita ieri sera non l'ho vista, quindi non posso giudicare molto. E non voglio neanche parlare della squadra perché quest'anno è ridicolo. Dopo un quarto d'ora mi viene il magone e giro canale. Sì, ma quale squadra? Quale squadra? Milano o Roma? Magone giustificato. Magone giustificato. No, ma perché ieri sera insomma magone è venuto a quelli della Roma. Ho un amico che è stato che è un tifoso del Milan storico, che mi ha detto: ho comprato l'abbonamento, sono andato a vedere 4 partite. Adesso per la prima volta nella mia vita, quando c'è il Milan uso il 205 o non so qual è il canale di Mediaset, però guardo anche le altre. Io volevo parlare della cessione del Milan. Sì. Perché secondo me non è vero che Berlusconi non può più permettersi di tenere il Milan. Mm. Il problema è la gestione sbagliata. Perché guardi che anche la Juventus, che prima un giornalista da lei ospite definiva molto più solida economicamente, secondo me non è vero che è più solida economicamente. No, è vero. Anche perché il ha detto chiaramente suo cugino Agnelli che si deve arrangiare da solo, sì, però la Juventus è un po' avanti, Giuseppe. Io sul Milan ti do un dato, invece secondo me Berlusconi finalmente ha detto la verità. Cioè Berlusconi negli ultimi 5 anni ha messo 287 milioni nel Milan, soldi staccati, assegni, soldi veri, e lo ha fatto sostanzialmente per galleggiare, per ridimensionare in un calcio in cui gli altri ne mettono 200 all'anno per potersi permettere i top player. Questa è oggi la fotografia. La Juve è un po' un mondo a parte rispetto alle altre italiane, ma resta comunque lontana dai club più ricchi. La Juventus non spende più del Milan, ha semplicemente scelto meglio. La Juventus, da quando è risalita la Serie B, ha speso un sacco, un pozzo di soldi, spesso male. Poi ha trovato la linea giusta. Adesso io mi fido solo di Beninazzo, che dice che venerdì qui abbiamo fatto i conti. Da questa Champions League prenderà come minimo 75 milioni, sono già in banca. E amministrata in questo modo, la Juventus è dietro alle due spagnole, al Manchester United e al Paris Saint-Germain, ai due Manchester. No, al Bayern Monaco. E al Bayern Monaco è l'ottava nona forza economica d'Europa, quindi è già su un livello strutturale e poi c'è questo circolo che è quello della Champions League. Se tu sei dentro comunque hai quel tot di ricavi tutte le stagioni. Se tu sei fuori, sarà dentro per i prossimi 10 anni. Se tu sei fuori, la grossa domanda è cosa sarà del calcio italiano nei prossimi 3-5 anni, visto che questo gap tra la Juve e le altre è destinato a crescere, a meno che Berlusconi non riesca a buttare dentro davvero un investitore che abbia dei soldi, soldi veri. Pronto? Buonasera, saluto coeso e molto positivo al vostro staff, composto da due bravi giornalisti e una bestia. Ma no, e quindi un saluto indubbiamente particolare al signor Pardo. Ma no, a parte che non c'è Pardo, povero ecco, Pardo. A me non piacciono le radio che hanno 10 conduttori e una bestia. Ma non ha una bestia, ma a parte che poi era una mela marcia, no? Se lei mi consente, caro Capuano, insieme a carissimo Genta, Pardo. Ma non faccia complimenti a noi per poi invece. Pardo è il Ranocchia della radiofonia italiana. Ma cosa ha fatto Ranocchia? Una bestia. Un attimo, per gentilezza, resta da vedere chi è la bella, Capuano o Genta. Vabbè, lasciamo stare. Io sono molto spiritoso. Ma perché ieri ha detto questa cosa su Ranocchia? Poi anche quello che ha detto su Che brutta cosa, Moratti non l'ha trattato bene. A proposito di Moratti, io ritengo che Moratti abbia ceduto una società a chi non ha capacità adeguate di investimento. E infatti è una squadra di 10 stranieri e una bestia. Insomma, sappiamo che Ranocchia è un po' il Pardo del calcio italiano. Mi sembra di parlare con un bambino della sera. Facciamo invece una domanda seria. Quindi lei ritiene di poter vendere il Milan, insomma, a qualcuno che può far bene, ai soldi? Guardi, io desidero porre alla vostra attenzione il fatto che in Italia oramai non si dice più pizza, mafia e Sofia Loren, ma si dice pizza, mafia e Milan. No, ma vogliamo spiegare, perché poi è anche un po' ambigua frase. Adesso le spiego tutto. Quindi, essendo un brand conosciuto in tutto il mondo, per essere al top deve avere top investimenti per evitare rovinose cadute. Sì, come a proposito di cadute, anche lei non è andata benissimo ieri con la caduta. A proposito della caduta di ieri, di rovinose cadute, ecco, evidentemente la bestia ha colpito ancora. Non mi stupirei di sapere che Ranocchia vota a sinistra. C'è la super Ranocchia. Arrivederci, presidente. Io voto Ranocchia. Torniamo subito, arriva anche Pier. Ragazzi, ci sono tra poco, tutti convocati weekend, 800 24 00 24. Se becchiamo tra poco, Tutti convocati. Voci dal giro. Ora invece è il momento del nostro speciale dedicato al Giro d'Italia, alla linea Pier Augusto Staggi. In una Genova carica di passione, il trionfo è tutto italiano. Chi si attendeva la vittoria del tedesco Greipel è stato piacevolmente sorpreso dalla bellissima vittoria in rimonta del veronese Elia Viviani, uno dei tanti corridori italiani che militano in un team straniero. Per il 26enne velocista del Team Sky si tratta della sua prima vittoria al Giro d'Italia, lui che è un autentico fuoriclasse della pista, con al suo attivo 2 argenti e 1 bronzo mondiali, 3 titoli di campione d'Europa e 13 titoli di campione d'Italia. Alle spalle del veronese di Isola della Scala, l'olandese Hofland, e il grande favorito di oggi, il gorilla André Greipel. La maglia rosa cambia padrone, ma resta in casa degli australiani della Orica Green Edge, passando dalle spalle di Simon Gerrans a quelle di Michael Matthews, già in rosa lo scorso anno. Domani terza tappa, Rapallo, Sestri Levante. Chi non vuole arrivare in volata è chiamato ad inventarsi qualcosa prima. Pier Augusto Staggi, Radio 24, Sole 24 Ore, Genova. Si chiude qui lo speciale Giro d'Italia, ridiamo la linea a tutti i convocati. Sono le ore 18:05. Va ora in onda la seconda parte di Tutti convocati weekend. Buon ascolto. Mi sembra che sono andato molto bene, molto coeso, positivo come annunciatore. E allora fatemi fare almeno questo, Cribbio. Tutti convocati. Abbiamo una nuova signorina, buonasera. Ma che meraviglia. Noi abbiamo una missione, trovare la un nuova lavoro a signorina, Silvio Berlusconi. Buonasera. Un lavoro a Silvio Berlusconi. Ha trovato! È questo qui. Facciamo la signorina buonasera per tutti i convocati weekend. Che ne dici, direttore Pier? Direttore napolitano, ascolta Berlusconi, diamogli il posto di signorina buonasera. Sono le 18:05. Pier! Pardo, ciao! Come va? Gli diamo il posto o no a Silvio? Che poi sarebbe Andro Mercù, lo diciamo perché... No, no, Berlusconi, è quello vero. Prima che ci prendano sul serio. No, devono prendere... È lui, Saremmo onorati, dai, sarebbe un annunciatore di grande livello. Noi lo stiamo testando. Un grande colpo mediatico, però questo tipo di ruolo... Stiamo facendo il casting, ma io se c'è da dargli una mano gliela do, te lo dico. Per il momento è sì. Sì, poi vediamo settimana prossima. Intanto, a proposito di colpi, diamo un aggiornamento. La Fiorentina sta vincendo 1-0 a Empoli, gol di Ilicic al 5° minuto, ancora 0-0 invece a Parma, tra Parma e Napoli. E questa, carissimo Pier, mi pare, e tu sei a Roma, giusto, no? In attesa di Lazio-Inter. Per andare all'Olimpico, sì. Mi pare che sia una domenica che rischia di essere decisiva in quella grande corsa che c'è alle spalle della Juventus per le zone europee. Parlo soprattutto dell'Europa League. Beh, insomma, se la Fiorentina dovesse vincere dopo la vittoria della Samp, sarebbe un grande... Attenzione che Parma è in vantaggio, Nono minuto, Parma in vantaggio sul Napoli. Attenzione! Clamoroso al Cibali. Prego, è lunga, tutta da vedere, però insomma è chiaro che Palladino, veramente, come dite, a Milano Ciapanò, no? Palladino, tra l'altro napoletano. Amico mio, nel finale di stagione le partite sono sexy come i gambaletti delle donne, quelli trasparenti, No, sai bene cosa Che Parma possa essere davanti con il Napoli. Pier. No, invece sono un po' al contrario, nel senso che questo era vero fino a qualche anno fa ed è vero ancora oggi in qualche caso, però stiamo vedendo da io lo dico con un po' di malizia, dall'ultimo scandalo scommesse, devo dire, se ci fate caso, negli ultimi 3-4 anni si cominciano a rivedere risultati sorprendenti, squadre che non hanno nulla da chiedere, che si impegnano, che giocano per l'orgoglio, che quindi arrivano a dei risultati di un certo tipo. Insomma, lo stesso Milan-Roma di ieri, insomma, il Milan aveva poco da chiedere, al di là dell'orgoglio, dell'onore, e ha vinto. Adesso chiaramente un risultato provvisorio, quello del Parma, ma il Chievo ha ottenuto dei pareggi con grande tranquillità contro la Lazio e contro l'Inter recentemente. Al Sassuolo oggi bastava un punto per essere salvo e invece poi è andato a vincere. Quindi no, devo dire, gli ultimi anni sono successe, e devo dire che mi piace questo, mi piace, perché comunque è un segno di interesse per il campionato. Per quanto riguarda l'Europa League, è chiaro che se la Fiorentina dovesse vincere con la vittoria della Samp, se l'Inter stasera non vince contro la Lazio, aspettando Genoa-Torino domani, però insomma Fiore e Samp farebbero finalmente quel passo avanti che aspettiamo che facciano da un mese e mezzo, nel senso che loro sono da sempre praticamente le detentrici della quinta e della sesta posizione, però hanno giocato a Ciapanò e adesso insomma forse questa è la giornata del tutto definitiva, sì. Anche se domani c'è Genoa Toro. Sì, però del Genoa insomma abbiamo l'assaputo, è vero che c'è ancora l'appello, però ci sono difficoltà ad avere la licenza UEFA che potrebbero anche essere insormontabili, ma io ho davanti insomma il calendario. E se le cose vanno come stanno andando per la Samp, sono già andate, servono 60 punti per il quinto sesto posto. L'Inter, per dire, ne ha 49, mancano 4 partite, tra cui la Lazio, la Juventus, cioè significa vincere sempre. No, l'Inter ha un calendario complicato, perché l'Inter ha appunto la Lazio stasera, poi la Juve in casa, poi il Genoa fuori casa e poi chiude con l'Empoli. Insomma, non è un calendario comodo sicuramente, così come non è un calendario comodo quello della Lazio nella lotta Champions League, anche se poi ieri il Milan ha perso. Adesso poi stiamo parlando con Napoli che è sotto, anche se può giocare per 80 minuti. Insomma, a me sembra veramente, dal punto di vista degli spettatori neutrali, questa lotta europea è distantissima, perché è piena di colpi di scena abbastanza clamorosi. Insomma, tutte le volte che sembra che ci sia, no, il sorpasso decisivo, poi invece le cose cambiano. Poi cioè, è divertente capire chi arriva seconda e ovviamente anche chi arriva terza e chi arriva quarta, cioè sono due sfide, no, in una, quella per il posto in Champions e anche quella per il secondo posto, perché se cominciamo a dare un'occhiata alle grandi d'Europa che andranno al playoff, considerato soprattutto il ranking non brillantissimo, soprattutto della Roma e della Lazio, il Napoli sarebbe messo meglio certamente, ma c'è il rischio di andare a pescare veramente il Manchester United. Sì. Insomma, lo stesso Valencia. Tu sai come la penso: essere eliminati ad agosto è una grande fortuna per il calcio italiano, passare dalla Champions all'Europa League, meno per il club. Beh, ovviamente non esageriamo. Poi, dal punto di vista del sistema del ranking è una grandissima fortuna, lo so, ma no, la fortuna lì bisognerebbe avere una squadra. Noi dovremmo, io posso dire un paradosso, noi dovremmo iscrivere la Juventus alla Champions e le altre 5 all'Europa League. Mi sembra per un po'... 2 anni, e fra 2 anni abbiamo recuperato, dai, la quarta a vincere, proviamo, però questo è un paradosso, vincere, lo dico, questa, metto Giovanni, avanti le mani, ragazzi, questo è un proviamo paradosso. A vincere questa, proviamo a portare il Napoli in finale a Platini, sì. Permettendo, sì, proviamo a portare il Napoli in finale e magari alzare questa Europa League, e poi tutto il resto lo vediamo, dai. Sì, poi da Juve adesso parliamo. Piero, vorrei sapere che idea ti sei fatto invece della Roma, che questa mattina ha fatto colazione a Trigoria, allenamento, e poi vedremo. Ma è una squadra che non è mai uscita dalla crisi, qualche volta è riuscita compattandosi a ottenere dei risultati, a vincere delle partite, insomma i rari casi di vittoria che ci sono stati nell'ultimo mese e mezzo, la vittoria col Napoli, uno scontro diretto, quella col Genoa, Sassuolo, Cesena, ma in generale complessivamente è una squadra che fatica, che costruisce poco e che concede un po' di più del solito. Ma ieri Garcia abbastanza... festa finita, Pierino. Ma io ti dico la verità, insomma, credo che a questo punto ci siano anche le responsabilità dell'allenatore, insomma, è inutile girarci attorno. L'allenatore, così come raccoglie i meriti quando fa cose eccezionali come è successo l'anno scorso, è così però è anche qualcuno che deve rispondere quando le gambe non girano. Per esempio la preparazione atletica della Roma mi sembra negli ultimi 3 mesi sia stato assolutamente insoddisfacente. Poi è facile concentrare il dibattito sul tema Totti o non Totti, no? Col fatto che che l'abbiamo visto. Si possono concentrare Totti o non Totti, Garcia o non Garcia, Sabatini o non Sabatini, che ha sbagliato totalmente il mercato, di riparazione. Il mercato è stato assolutamente sbagliato, su questo non ci sono dubbi. Sabatini, però si è preso la responsabilità, e questo mi piace, Sì, ma questo senz'altro. Sabatini è uno che si è beccato, secondo me, giustamente gli applausi, perché è uno che ha fatto fare alla Roma delle preferenze mostruose. Da Marquinhos a Benatia, lo stesso Lamela, insomma, è uno che dal punto di vista della coperta di talenti è un fenomeno. E quest'anno che c'era da costruire su una squadra già molto buona, mi sembra che insomma non abbia avuto la stessa capacità, la stessa efficacia, e credo che gennaio sia stato veramente una specie di caporetto. Il gol di destro da questo punto di vista è proprio paradigmatico, no? Destro ci potrà anche stare l'idea che venisse ceduto, sappiamo che i rapporti con Garcia non sono eccezionali, è un attaccante che poi va anche detto, non è che al Milan poi abbia fatto 20 gol, quindi non è stato un errore tout court mandarlo via, però ricorderete che Andato anche in una squadra che per i centravanti gioca poco, vi ricordate, andò via prima di Roma-Empoli, anche come tempistica, insomma è stato un prestito che non aveva senso in attesa di avere un'alternativa, no? Certo, lo puoi prendere quando sai che già sta per arrivare Dumbia, al di là della scelta Dumbia, ma la Roma lì è stata 15 giorni senza attaccante. Sicuro. Poi in quel momento lì sembrava che l'unico problema della Roma fosse capire se riuscire a lottare per lo scudetto oppure no, invece poi abbiamo visto una realtà era molto più complessa. Allora, aggiornamento 16° minuto sui due campi, Fiorentina avanti 1-0 a Empoli, Parma avanti 1-0 contro il Napoli. Noi ci fermiamo per il traffico, poi parliamo della Juventus. Cordiale saluto dal senatore Maurizio Gasparri. Adesso una novità assoluta, faccio un tweet, chiocciolina a seconda dei casi, fair play finanziario, 6 milioni alla Roma, hashtag sti cazzi, hashtag Platini Juventino, e famo un altro hashtag, ma vedi dannaffanculo. Tutti convocati. BMW Freeride, il nuovo finanziamento per il tuo maxi scooter BMW, info su bmwmotorrad.it. Vi presenta convocati. Vai là dentro, deviato, gol! La Juve in gol! Col polpo a bolla! Ha preso la mira, ne ha messo uno basso, ne ha messo uno largo, ne ha messo uno corto, ne ha messo uno alto e poi l'ha messa in porta in vista di Madrid. Chiedo se l'aspettava così oggi Pogba, e a questo punto insomma Madrid ci sarà sicuramente. Valuterò di qui a mercoledì, però direi in buona condizione, l'avevo visto già negli allenamenti sia di ieri che dell'altro ieri, dove ho lavorato molto con la palla, con la squadra, quindi poi ragazzo giovane, grande struttura fisica, non è un problema del rientro. Parte Bale, la traversa di Gareth Bale, e arriva la seconda traversa della serata per il Real Madrid. Questa volta aveva preso l'ascensore Cristiano Ronaldo. E viene ancora De Hernandez. Terzo palo del Real Madrid. Bel cross, Paco Alcácer. Per il vantaggio del Valencia. Javi Fuego. E il Valencia raddoppia. Indipendentemente da come giocheranno loro, sappiamo che sarà una partita molto difficile, perché a Madrid giocheranno anche un'altra partita con giocatori di grande tecnica. Noi bisogna fare una partita molto più offensiva. Non si preoccupa di quello che fa il Real Madrid, che ieri ha fatto il tiro alla traversa, ha perso definitivamente la Liga, ma del resto era lì appesa un filo. Tre angoli, un rigore, non e vale. Quindi mercoledì si gioca tutto, con quello che può significare, Pier, anche dal punto di vista delle motivazioni. Sì, ma è una partita equilibrata, l'abbiamo visto all'andata, anzi all'andata la Juve ha giocato meglio del Real. È chiaro che al Bernabeu comunque sia possono succedere cose particolari, nel senso che è uno stadio talmente grande, il Real ha una storia talmente forte, dei giocatori talmente esuberanti dal punto di vista della qualità tecnica, anche dal punto di vista individuale, che possono anche trasformare la serata in, una, in un incubo, trionfo, sì. In un trionfo per il Real, in un incubo per la Juve. Detto questo, io non la vedevo chiusa l'andata, e a maggior ragione non la vedo chiusa adesso. Cioè, penso che sia veramente 50-50, e penso che se il Real Madrid sicuramente come talento ha 2-3 giocatori ancora superiori ai migliori giocatori della Juve, però la Juve abbia una compattezza di squadra che in questo momento Real se la sogna. Ma come dici tu, non se la portano da casa, eh? Ma no, non se la porta nessuno da casa, non se la porta da casa sicuramente il Real, non se la porta da casa sicuramente la Juve. Però ecco, io penso che la Juve veramente abbia fatto un cammino europeo strepitoso e arrivi a questa partita nelle migliori condizioni possibili, al di là del risultato. Io mi sembra che tutti gli elementi vadano in una direzione, che è quella di potersela giocare nel migliore dei modi possibili. Sì. Poi se questo basterà io non te lo so dire, però insomma anche il recupero di Pogba, ma anche la condizione fisica, il fatto di aver potuto fare turnover a differenza del Real Madrid che era impegnato ancora nella lotta a Scudetto, insomma, mi sembra che tutta una serie di elementi, la Juve arriva molto meglio del Real a questa partita, anche con meno pressione addosso. Ha vinto il suo campionato, ha fatto pienamente. Il Real è sul loro del fallimento. Se non vince la Champions, la stagione. No, ma la Juventus può giocare anche sul fattore Bernabeu, al contrario, Questo sì, appunto, anche se io ho l'impressione che mercoledì il Bernabeu sarà un catino unito. Aspettate che intanto saluto Max Nerozzi. Ciao Max. Ciao, buonasera a tutti. No, giusto per capire se dopo aver visto Juve Cagliari, partita più inutile della stagione di ieri, ma è anche giusto e fisiologico che sia così, oggi questa marcia di avvicinamento della Juventus a Madrid prosegue spedita senza intoppi. Ho letto di Asamoah tornato in gruppo, ad esempio. Sì, ma sai, insomma, potrebbe essere utile per la finale di Coppa Italia, perché non è lista UEFA. E invece Pogba, tu te lo giocheresti? Già io subito sì. Pronti via dal preolimpico del Bernabeu? Io sì, perché la Juve dovrà far gol e Pogba è una variabile, cioè è uno che fa gol e tra altre cose Bernabeu è uno studioso con una gran partita. Ma poi io penso che proprio perché il rischio sia più nel colpo di talento dei grandi giocatori più che nella forza di squadra, perché la Juve ha dimostrato di essere all'altezza, quindi secondo me non deve avere grandi paure, insomma uno come Pogba va almeno parzialmente a riequilibrare questa sfida di talento in mezzo al campo, nel senso che uno di quelli che possono trovare la giocata e che possono anche mettere paura, cioè in un momento nel quale il Real Madrid è insicuro, insomma trovarsi Pogba di fronte secondo me è un'ulteriore complessità, al di là del fatto che poi ieri l'ho visto, mi sembra che le risposte siano state molto positive sia dal punto di vista della prestazione che dal punto di vista soprattutto del dolore che non sente, quindi mi sembra che Pogba scenderà in campo abbia ruolato. Possiamo essere cattivi, possiamo essere cattivi, sì. Non è come uno come Casillas, uno che tira da 25 metri 30 come Pogba e lo vede in campo e gli chiede 5 volte. Chi è quello che è meglio di Buffon? Sì, secondo Casillas. Cioè quello che è meglio di, secondo Dino Zoff, quello che è meglio di Buffon. Ma Casillas da 3-4 anni è stato un portiere strepitoso. Lunghetti come titoli di coda, Pierino. Sì, no, ma per carità, però io credo che questo sia uno di quegli elementi, quando parliamo dei condizionamenti, spesso lo facciamo con Filippo Maria Ricci, no? dei piccoli rovesci della medaglia di essere un club grande, forte e ricco come il Real. C'è tutta una serie di piccole. Di piccoli rovesci della medaglia. Uno di questi è che un portiere come Casillas ha un ruolo nella storia di questo club tale che insomma è difficile tenerlo in panchina, anche se sì. Prima Mourinho e poi Ancelotti hanno iniziato negli anni una turnazione con Diego Lopez che mi sembra, così occhio e croce, mi sembra più forte in questo momento, e difatti, insomma, gioca altrove. Max, ma ho letto da qualche parte che in realtà Pogba è ancora in ballottaggio con Pereira. Cioè, al di là delle nostre convinzioni, cioè sul fatto che difficilmente la Juve non prenderà gol, perché comunque reggere 90 minuti alla pressione del Real è difficile e quindi serve a tutti i costi farne uno, perché questo ti obbliga al 2-1 dell'andata. Che cosa hai in testa Allegri? Da quel che abbiamo capito il modulo non lo tocca, cioè giocherà a 4 anche stavolta. E poi può essere vero, è vero che il ballottaggio c'è, come dicevi tu, perché non è che una partita sovverte o il talento sovverte tutte le gerarchie fatte in quest'ultimo periodo, però più che la statistica del gol del Real, che Real probabilmente riuscirà a fare un gol a Juve, nelle ultime partite Real li ha sempre presi, o uno o due addirittura, io penso che su questo debba puntare a Juve. cioè sull'idea che si deve andare là a segnare, a quel punto costringere il Real Madrid a farne tre. Lo sanno perfettamente. Real Madrid che oggi si è svegliato con il caso Bale, le parole dell'agente di Gareth Bale ai giornali inglesi, è un po' in crisi perché non gli passano la palla. Ecco. E anche questo non è male, Max e Pierre, come viatico, ecco, per una partita che è più decisiva per il Real che per la Juventus. Non gli danno il pallone. Non gli danno il pallone. Sono tutti segni di nervosismo. Bale paga la quotazione. Bale è un ottimo giocatore che al Tottenham faceva cose straordinarie, soprattutto l'ultimo anno ha fatto cose straordinarie. Chiaramente non è uno che vale 110 milioni. Bravo. Non è uno che può valere quella cifra, non è uno dei primi tre al mondo, non è forse neanche uno dei primi cinque, forse è tra i primi dieci. E come tale, insomma, potrebbe avere una quotazione. Bravo, Pier, quella, di 40-50 storia là, milioni. No? Poverino, quindi... la cosa vera è che quella quotazione l'ha schiacciato, cioè l'ha triturato dal punto di vista emotivo. Questo poi è un giocatore che negli anni ha avuto tanti ruoli diversi, perché ha cominciato da terzino, ricorderete la famosa tripletta in Inter Tottenham, poi esterno, poi ha fatto l'esterno alto, poi ha fatto il trequartista nell'anno nel quale ha segnato il più, si è messo bene in Tottenham. Adesso fa l'attaccante che non torna. No, ma è un giocatore i numeri sono diversi, perché proprio la gente diceva: andate a vedervi quanto ha corso ad esempio a Torino, Max, dire? Tu che c'eri, quanto ha corso Bale e quanto ha corso ad esempio qualche suo compagno di reparto. Non vuol dire niente del giavellotto, della pratica leggera. È vero, che ha corso di più però è stato James Rodriguez, che ha un numero 10 ma ha un fisicaccio, non lo so, sui distanze con Metri è stato un disastro il Real Madrid qua comunque, la Juve, c'è stato un giocatore di differenza, che sono 7 km e mezzo, quasi un giocatore fa la differenza. Ma poi non vuol dire devi vedere come corri, dove corri, cioè Bale in questo momento e per tutta la stagione è stato un attaccante che non aiutava il centrocampo. Ha detto: gioco lì e non decido di non aiutare la squadra perché la mia quotazione mi impone di fare gol e fare numeri e fare fatturato. Quindi credo sia un giocatore l'Empoli contro la Fiorentina, gol di Saponara. Empoli 1 Fiorentina 1. Napoli sempre sotto 1-0 col Parma. Sempre sotto 1-0 Napoli col Parma. Volevo fare un'ultima domanda a Max Nerozzi prima di salutarlo, ringraziandolo, e cioè se diamo per scontato che il compagno di reparto di Tevez sarà Morata. Sì, penso che su questo non ci siano dubbi. Aggiungo una cosa, se mi permetti, mi ci metto anch'io. Parlando con ex juventini di questi giorni, che hanno avuto anche Ancelotti, secondo me noi tutti, ripeto, mi ci metto anch'io, forse sottovalutiamo Ancelotti. È stato un po' sbeffeggiato per la scelta di Sergio Ramos. Tutti mi dicono: attenzione, che Ancelotti forse è il miglior allenatore dei quattro e magari qualcosa inventa. E se ha messo Sergio Ramos, c'era una ragione. Forse il più pericoloso di mercoledì notte sarà Ancelotti. Sicuro. Beh, insomma, ha dimostrato spesso in carriera di essere stato capace di ribaltare queste situazioni di spalle al muro. Assolutamente. Pareggiato il Napoli. Intanto ha pareggiato il Napoli proprio in questo istante, quindi Parma-Napoli 1-1. Grazie Max. Ciao a Max. Voi, ciao, buon lavoro. Grazie a Max Nerozzi. Noi ci fermiamo, poi quando entriamo vediamo anche il marcatore del Napoli. Lo striscione, grazie Allegri, corri per lei, l'hanno commossa, la stanno commuovendo ed emozionando in questo momento della stagione. Il minimo di emozione ce l'ho anch'io, perché non sono assolutamente di ferro come sembra, e oltretutto credo che per me, insomma, quest'anno è il secondo scudetto in due squadre diverse. Tutti convocati. Tutti convocati. Come si concilia la voglia di rinforzare, di riprovare a lavorare di nuovo per una grande Roma con questa spada di Damocle dell'UEFA? No, ma per noi non è una spada di Damocle. Noi abbiamo terminato in questi giorni una fase di negoziazione con gli organi di controllo dell'UEFA, che sapevamo benissimo sin dall'inizio di dover affrontare nel momento in cui fossimo stati così bravi da tornare nelle competizioni europee. Questo perché gestiamo una società che produce perdite da diversi anni, quindi la ristrutturazione implica ovviamente del tempo. Ieri è arrivata questa multa che non dovrebbe cambiare molto gli scenari, però volevo sapere se avevi ricevuto ulteriori rassicurazioni da Toir sul mercato di rafforzamento. Ma io credo che, insomma, l'UEFA abbia capito che l'Inter sta cercando di fare le cose in modo giusto. È chiaro che c'era un po' più di tempo probabilmente, non credo che questo cambierà di molto quelli che sono i nostri obiettivi sul mercato, ecco. Questi Baldissoni e Mancini, intanto clamoroso al Tardini, Jorquera ha riportato in vantaggio il Parma, quindi Parma 2 Napoli 1. Io smetto di commentare il Napoli, posso? È impossibile. Facciamo delle figure. Da cazzo bestiali tutte le volte che parliamo del Napoli. Possiamo anche dire una cosa, che se Benitez ha in mano lo spogliatoio, questa non è la risposta. Perché se tu hai la Roma che ha perso e puoi rientrare Giovanni, chi lo sa, cioè, e poi vai a Parma e fai questo primo tempo, l'aereo più pazzo del mondo, 5-2 il Napoli, per carità, però fai questo primo tempo, infatti ho detto fai questo primo tempo, insomma, che è il primo tempo di una squadra l'aereo più pazzo del mondo, Napoli, che con la testa non c'è. Fatemi salutare Massimo Paganin, ciao Massimo. Ciao a tutti, buonasera. Ci sono piccoli segnali nelle cose, quando tu giochi un primo tempo come questo probabilmente hai la testa altrove. Invece abbiamo sentito Baldissoni e Mancini, perché questa è stata anche la settimana delle sanzioni UEFA per il fair play finanziario, tutti e due dicono no, nessun problema, il nostro programma va avanti. Ho l'impressione, e mi leggo quindi a Lazio-Inter di questa sera, che Roma e Inter siano invece chiamati fondamentalmente a una scommessa continua, soprattutto l'Inter, cioè deve entrare in Champions in qualche modo, quest'anno non si può fare, magari si insegue l'Europa League, però vive Mancini in uno stato di scommessa continua, Massimo. Beh, sicuramente, le squadre come l'Inter e anche come la Roma, io parlo dell'Inter in questo momento, non credo che anche la Roma negli ultimi anni sono stati fatti degli investimenti importanti. L'Inter da sempre è una di quelle società che deve puntare a vincere il campionato ogni anno, dall'avanti in avanti, e molto di più adesso anche con Torino sono stati fatti degli investimenti importanti. Credo che negli ultimi due anni si aspettassero qualche cosa di diverso, sia con l'arrivo di Mazzarri dopo l'era Stramaccioni e quest'anno con Mancini dopo che è subentrato. Invece non ha fatto benissimo, perché la media punti è bassa e ha buttato via soprattutto contro squadre di bassa classifica dei punti importanti che gli avrebbero consentito di essere più a ridosso delle prime, di conseguenza non dico di andare direttamente in Champions League, ma perlomeno in Europa League poteva essere tranquillamente dentro, e soprattutto quell'eliminazione in Europa League dove un turnover forzato ha fatto sì che l'Inter nella squadra nella partita di andata buttasse via la qualificazione, perché il Wolfsburg ha dimostrato poi contro il Napoli di non essere una squadra così irresistibile, e a mio modo di vedere l'Inter poteva passare, per cui anche le eliminazioni Coppa Italia la stessa cosa con il Napoli dove avrebbe. Ma tu cosa ti aspetti dall'Inter questa sera? Sono tutte aggravanti, Massimo? Sì. Sono tutte aggravanti, difatti dico sono cose sulle quali riflettere logicamente, perché credo ci si aspettasse molto di più rispetto a quello che è stato fatto, no? In linea di massima adesso sono stati presi dei rinforzi che erano Shaqiri e Podolski a gennaio e adesso non giocano, sono dei soldi per dei giocatori che non giocano, per cui io credo che da questo punto di vista sono tutte considerazioni che andranno fatte, la società farà i suoi investimenti e darà retta con un accordo con Mancini per rinforzare il più possibile la squadra. Mancini sta giocando in questo momento con un sistema di gioco, con un modulo che non è il suo, non è quello che ha nella sua testa, sta facendo abbastanza bene da quando ha cominciato a giocare Hernanez come trequartista, cioè, mi pare che ci sia voluto un po' troppo tempo prima che trovasse questo tipo di soluzione. Ma che Inter vi aspettate? Pier, chiedo anche a te questa sera. Ma io mi aspetto un Inter viva, perché allora secondo me se la Lazio sarà quella che abbiamo ammirato nel periodo delle 8 vittorie consecutive in quei due mesi, cioè secondo me in quel momento la squadra assieme alla Juve più forte del campionato per distacco, allora non ce n'è per nessuno. Sì, però è finita da un mese quella Lazio, dopo l'ultima vittoria, una sconfitta, due pareggi, ha battuto solo il Parma. Però Lazio Parma 4-0 dopo 20 minuti ed erano 3-0, e qui oggi stiamo parlando di Parma-Napoli con Napoli che è sotto dopo mezz'ora. Cioè, voglio capire, sono molto curioso veramente di vedere che Lazio sarà. Detto questo, l'Inter ultimamente, dopo quel famoso Inter-Parma, che è stato il primo dei sei risultati utili consecutivi, ha cambiato passo, ha cambiato completamente struttura di squadra, come diceva giustamente Paganina, ha dato responsabilità a Hernanes, ha completamente recuperato Hernanes, di contro Shaqiri sembra essere uscito dal progetto, secondo me ha recuperato giocatori importanti. Palacio è un giocatore in crescita comunque in questo 2015 rispetto alla prima parte della stagione. Icardi è un punto di riferimento da 23 gol. Insomma, secondo me oggi l'Inter è una squadra viva, non è ancora una squadra che ha equilibrio, tant'è vero che a Udine, nella partita nella quale c'erano Gian Jesus e Ranocchia fuori per squalifica, ha ballato 11 contro 9, quindi non è ancora una squadra completamente equilibrata, però è una squadra frizzante secondo me in questo momento, che paradossalmente gioca meglio fuori casa che in casa, perché ha meno ansia la prestazione e perché le fa piacere avere un po' più di spazio per potersi inserire. Quindi se la Lazio non è quella di quelle 8 partite, per me è una partita può essere anche equilibrata. Con quella Lazio lì, per me in Italia può giocare soltanto la Juve. Esiste, Massimo, l'ansia da prestazione a San Siro? Sicuramente la pressione è enorme. È vero che la media punti dell'Inter è maggiore fuori casa che in casa. Questo significa che la squadra preferisce giocare quando le squadre avversarie danno degli spazi sui quali potersi muovere. Giustamente si faceva accenno al fatto che contro l'Udinese ha ballato anche contro il Chievo in casa. L'Inter va in difficoltà nel momento in cui si cambia il sistema di gioco. Il Mancini ha trovato un equilibrio con questo 4-3-1-2 con le due punte davanti, Hernanes dietro le punte. Quando cambia il sistema di gioco passa un 4-2-3-1 perché inserisce Podolski, la squadra va fuori equilibrio perché è sbilanciata in avanti e di conseguenza ha dei problemi sulla fase difensiva. È logico che dovrà intervenire sul mercato per ciò che riguarda la prossima stagione, se vuole puntare a quei primi posti che le consentono di entrare in Champions League, dovrà prendere almeno due o tre pezzi, comunque uno sicuramente a centrocampo, che è un uomo davanti alla difesa, perché Medel gli dà garanzie di impostazione, è bravo in fase di rottura ma non in fase di impostazione, quindi un giocatore come Iagliature davanti alla difesa potrebbe sicuramente dare qualche cosa, molto di più logicamente, sia sul piano fisico che sul piano della costruzione del gioco. Ed un giocatore in difesa, perché quest'anno la difesa purtroppo non ha fatto benissimo. Juan Jesus seduto, l'hanno spostato sulla sinistra come terzino sinistro, ma mi sembra più un rattoppo da questo punto di vista, no? Una pesca durante l'anno, quindi qualche cosa dovranno fare. Poi da metà campo in su credo che i giocatori ci siano, forse un altro pezzo per eventualmente dare... Sì, poi andrà anche chiarito che ruolo ha Shaqiri, perché è l'acquisto, il fiore all'occhiello del mercato di gennaio, oggi esatto. Quinta panchina consecutiva, qualche domanda lì. Prego. Ma Mancini l'aveva preso per poter giocare con un 4-2-3-1, quindi da esterno destro di attacco, in maniera tale che potesse, solitamente con il 4-2-3-1 si gioca con gli esterni con i piedi invertiti, quindi Shaqiri avrebbe dovuto giocare a destra, potendo rientrare dentro il campo, andando a calciare o trovandosi a calciare in porta con il piede Mancino. Si è accorto Mancini invece che le caratteristiche dei giocatori che lui aveva preso non erano favorevoli a quel tipo non erano adatte. No. Vi voglio chiedere un minuto adatte. Invece una cosa sulla Lazio, oggi rientrano Biglia e Klose, che sono al fondo un campione del mondo, un vice campione del mondo, forse nella mini crisetta della Lazio delle ultime 3-4 domeniche anche le assenze hanno avuto pesato. Un peso, Pier. La Lazio si è incartata, poi relativamente, nel senso che poi alla fine ha fatto una vittoria, due pareggi, una sconfitta, e in queste quattro partite c'era dentro anche la Juve, quindi insomma sì, con la Juve, c'erano anche Chievo e Parma in casa, sì, e Atalanta sicuramente. Su tre partite diciamo ha fatto 5 punti che dovevano essere almeno 7, insomma, in un percorso virtuoso. Detto questo, Klose sta facendo paradossalmente la migliore stagione di quando era Lazio. E sta crescendo, è cresciuto moltissimo nel 2015, è arrivato a 15 gol stagionali, 16 è il suo record in assoluto quando sta nella Lazio. Biglia o Biglia, che se preferite, è un giocatore importantissimo perché secondo me la Lazio, lo sentirà anche Massimo, la Lazio ha veramente un grande centrocampo, nel senso che ha un centrocampo equilibrato negli uomini, ha un giocatore di ordine, un regista di tipo tradizionale, di buona esperienza, e poi ha degli incursori di grande livello. Questa forza qui, questa completezza, secondo me ce l'hanno pochissime squadre. Gli infortuni sicuramente hanno inciso, ma anche dietro un giocatore che invece non ha recuperato è De Vrij, sicuramente insomma De Vrij è un'assenza, è un peso pesante, sì. Qualche scritto sì, io dietro la difesa senza De Vrij è diversa dalla difesa con De Vrij. Massimo, vuoi provare con un pronostico? È un po' che non facciamo i pronostici, ci lanciamo per Lazio-Inter. Sicuramente a mio modo di vedere sarà una partita con diversi gol, perché la Lazio è il miglior attacco assieme alla Juventus del campionato, l'Inter balla molto in difesa. Però è vero che a mio modo di vedere, al di là del pronostico, credo che la partita si giocherà molto sul centrocampo per ciò che riguarda l'Inter, ossia dovranno essere bravi a raddoppiare sugli esterni, perché la Lazio credo che abbia le coppie di esterni a destra e a sinistra con Radu, Felipe Anderson e Candreva e basta dall'altra parte. che possono fare la differenza, soprattutto a due centrocampisti che sono Biglia, come dicevate prima, e Parolo, che è in grado di inserirsi e di fare male. Perciò la partita si giocherà soprattutto lì, dovrà essere brava l'Inter, riuscire a fare delle scalate per andare a coprire ovviamente la superiorità numerica sugli esterni, visto e considerato che le punte solitamente non rientrano. Per cui credo che il pronostico sia questo, che si giocherà soprattutto sulle corsie esterne e l'Inter dovrà essere brava a fargli la partita. Poi a mio modo di vedere... Ce lo fa... uno per la Lazio. 2-1 per la Lazio, tu dici. Ma sto giocando, Sto giocando. Ah, perfetto. Equilibrata. Ma invece Massimo giocando dice... No, io ho un 2-2 oggi. 2-2, ma sai che 2-2 lo prendo anch'io come... Te lo prendi. Come pareggio con tanti gol. Me lo prendo anch'io. Grazie Massimo. Ciao, grazie Massimo. A voi, buona serata, buon lavoro. Ciao. Intanto siamo agli ultimi secondi, anzi è finito il primo tempo ad Empoli. 1-1 tra Empoli e Fiorentina, credo sia finito il primo tempo anche a Napoli, a Parma. E Parma avanti 2-1 contro il Napoli. Traffico, torniamo subito. Tutti convocati. Convocati. Dunque i finali Empoli-Fiorentina 1-1, Fiorentina in vantaggio al quarto con Ilicic, pareggio di Saponara al 28esimo, 2-1, il Parma sul Napoli, Palladino al nono del primo tempo, pareggio di Gabbiadini al 28esimo e poi calcio di punizione di Jorquera e io credo Andujar rivedibile sul calcio di punizione al 33esimo per una classifica che al momento dice... Nelle zone quelle alte che il Napoli è fermo a 59, quindi staccato di 4 dalla Lazio e di 5 dalla Roma. E invece la Fiorentina è sesta, quota 53, perché c'è la Samp, quinta, quota 54. Pier, ti salutiamo. Ciao ragazzi. Ciao Pierino, ci sentiamo domani alle 2. Corri all'Olimpico. Buona partita. Fiorentina che sta buttando via una bella occasione. Chi è? Oh, a proposito di belle occasioni, Libiamo il Lex Galici. Presidente Ferrero, libiamo, contento. Ma bevete pure voi. Ma che beviamo? Siamo in servizio. Contento, oggi hai vinto bene la Samp, no? Dici poco, Agapua. Vento di vittoria. Sì. Io aspico scudetto e poi me ne posso pure andare. No, ma l'abbiamo letto questa settimana. Che lui ha detto che se vince lo scudetto, poi potrebbe. Ma non con Lecce lo scudetto, no? Con la Samp. Ma che sta a dire? Avete bevuto? No. Noi no. Però è un po' lunga la strada per lo scudetto per la Samp, anche se oggi insomma forse si è qualificato per l'Europa League. Dici poco, no. Ma avete visto quante caruccio preziosi con una cravattella a quel faccino triste? Sì. Faccino triste, è senza licenza UEFA e quindi sembra stata una bella settimana. Sì, immagino. Enrico, stai sereno, a vincere la Coppa ci pensavo noi da Samp. Sì. Pedoria, sì. Alzare la vita. Che però dovete giocare, non potete giocare. No, non vogliamo un boccetto. Siamo in servizio, no, però a parte che non giocate a Genova, se anche fate la Coppa l'anno prossimo, abbiamo detto. Via. Giocate a Reggio Emilia. Ma che state a dire? Vi siete pigliati la sbronza da È tutto vero. È tutto vero. Abbiamo letto, così dovete giocare al Mapei Stadium. Vabbè, ma tanto a me del campo non me frega niente. Noi faremo un sacco di belle cose lo stesso. Ma chi è che decide queste cose? Sì. Le decide Platini? Cosa c'entra Platini? Platini, ciao, mi raccomando, sogni d'oro. Sì, cosa fa? Fa De Laurentiis, si sta preparando. Un fronte comune con De Laurentiis. Platini, a te damo pure a dorce una sera. Sì. Platini, arrivederci presidente. Arrivederci. Si sta allenando a fare De Laurentiis. Oh, parliamo di Giro d'Italia. André Greipel bella con Giacomo Nizzolo, poi Offlanda prova ad uscire anche Elia Viviani con Offlanda, Viviani, il successo italiano di Elia Viviani davanti a Moreno Offlanda. festeggiamo la prima vittoria italiana. Ciao Ivan Basso. Ciao Ivan. Ciao a tutti. Ciao. Insomma, è sempre un bel giorno quando un italiano vince al Giro, no? Sicuramente. Poi che italiano? Un italiano giovane, un italiano con un futuro bellissimo davanti, e quindi ovviamente una giornata positiva per i nostri colori. Cosa hanno detto queste prime due giornate di Giro? Se si può cercare un filo, un significato, qualcosa che ci aiuti poi a leggere che cosa succederà? Ma le prime giornate di Giro sono significative perché sono complicate dal punto di vista proprio dell'agonismo, che c'è tanti corridori, tutti i giorni c'è la possibilità di conquistare la maglia rosa, la vittoria di tappa, quindi traguardi parziali che all'inizio di giro sono alla portata di tanti corridori, quindi questo porta ovviamente grande stress all'interno del gruppo, perché ci sono le squadre dei leader che devono proteggerli, sono i corridori che vogliono vincere la corsa, quindi diventa una giornata complicata, anche se dal posto altimetrico non era così impegnativa. Senti Ivan, come ti ho detto venerdì, io voglio veder vincere una tappa a Petacchi in questo Giro d'Italia, lo confesso chiaramente, ma mi fai, non è accaduto oggi, ma glielo dico anche, glielo dico tutti i giorni, mi fai un mini ritratto di Elia Viviani? Un mini ritratto di Viviani? Sì. Sì. Ma credo che il ritratto è la vittoria di oggi sia il ritratto più bello, è un atleta, come ho detto poco fa, giovane, vincente, un atleta che è solo l'inizio quello che ha fatto oggi. Io credo che in questo Giro d'Italia avrà molte occasioni per mettersi in luce, e quindi per i nostri colori il Giro è iniziato molto bene, come è iniziato bene anche per i colori della mia squadra. La tua squadra, certo. Che per il secondo giorno siamo stati molto bravi, siamo riusciti a proteggere Contador nel miglior dei modi. Pedala bene Contador, lo vedi pedalare bene. Pedala bene, certo, per questo noi ci crediamo e abbiamo lavorato tanto per raggiungere appunto l'obiettivo finale, però bisogna andare giorno per giorno. Grazie Ivan. Ciao Ivan. Grazie a voi. Ciao, un abbraccio. Grazie ciao. Ivan Basso dal Giro che ritroviamo poi domani mattina alle 7 con lo speciale di Pier Augusto Stagi. Noi che ci fermiamo Napoli, qui. Sempre intervallo. Napoli siamo sotto sempre all'intervallo, sempre sotto 2-1 a Parma, 1-1 a Empoli, tra Empoli e Fiorentina. Oh, io ringrazio Claudia Schiattone, autrice di questa puntata, Roberta Frisani, Pietro Lacorte in regia. Noi con Tutti i Convocati Weekend ci risentiamo domenica prossima dalle 17 alle 19 con Tutti i Convocati domani dopo il GR delle 14. Ciao.